attinse e posa al fin. L'onore ed il dover fra i nostri petti ha rotto l'abisso, ma sì, Renato rivedrà l'Inghilterra e la sua sposa la seguirà senza un addio. L'immenso oceano ne separi e taccia il cuore. Esito ancora, ma uccel non lo deggio.